America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Oggi è Columbus Day, una festa celebrata in tutti gli Stati Uniti, qui nella capitale americana, a New York. Fra poche ore ci sarà la grandissima parata del Columbus Day, una parata straordinaria trasmessa in diretta televisiva sulla Quinta Strada, guidata dal sindaco. Mi ricordo quando veniva Pavarotti o altri personaggi nostrani noti all'America che venivano appunto a guidare questa parata. E vorrei approfittare di questa giornata per tornare a parlarvi di un tema che mi è molto caro, e cioè il 150esimo anniversario della nostra Unità d'Italia. Sono a Washington perché in ambasciata si è inaugurata una mostra itinerante dedicata proprio ai 150 anni, e sono venuti a vederla personalità italo-americane molto importanti. Nancy Pelosi, per esempio, l'ex presidente della Camera, con cui ho chiacchierato, orgogliosissima del suo patrimonio culturale italiano; il giudice della Corte Suprema Antonin Scalia, un gigante della cultura costituzionale americana, di destra, di partito opposto ovviamente rispetto a quello di Nancy Pelosi, eppure i due erano lì legati da questa loro comune eredità. Ecco, di questo ho parlato con il nostro ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, anche lui qui a Washington, presidente della Commissione per i 150 anni, tra l'altro, che saluto. Benvenuto ad America 24. Buongiorno a lei. Parlare con gli studenti americani dell'Italia, come gli si fa capire che non è soltanto pizza e fichi? È un punto giusto quello che lei tocca, perché soprattutto in questo paese è vero un qualcosa che francamente ho avuto modo di constatare nel nostro stesso paese, e cioè che vi sono stereotipi che girano su di noi, sulla nostra storia, sul nostro carattere, sulle nostre attitudini, che si sono formati magari su un qualche fondamento di verità, ma che cancellano buona parte della nostra storia, della nostra identità, dei nostri modi di vivere, che occasioni come un anniversario come questo permettono di scoprire, guardarsi allo specchio e dire: toh, ma in fondo è proprio così. Ecco, questo cambia l'immagine e dà una qualche forza morale al sentimento degli italiani. Lei crede che ci sia oggi una crisi, forse in Occidente, una mancanza di leadership, un problema con cui tutti ci dobbiamo confrontare? Il problema indiscutibilmente c'è, ed ammesso anche che abbiamo dei leaders di minore qualità, è anche vero che rispetto al passato la crisi che viviamo ha caratteristiche di novità e direi di dimensione così gigantesca che mai i leaders precedenti si erano trovati ad affrontarla. Questo è un po' ciò che preoccupa in questa fase, la sensazione che siamo alle prese con un problema che qualcuno fra 100 anni potrà dire: si sa, era un problema di transizione, perché soprattutto i paesi occidentali erano abituati a prosperare in un mondo più povero che dipendeva da loro. Ora 3/4 del mondo si sono messi a crescere, e com'è, come non è, è questa la fonte di squilibrio principale. Perché non si prepara un pacchetto, un veicolo vicino all'SFS, per esempio, di cui si è parlato al fondo? Perché non si ricapitalizzano le banche, magari con l'ingresso dello Stato? Perché non si fa un programma di stimoli e non si presenta tutto insieme? Perché c'è questa lentezza? In Europa c'è una posizione tedesca, comprensibilmente sul piano storico, figlia di un'antica ossessione tedesca che vede nell'espansione dei debiti il preannuncio di una grande inflazione che poi può devastare tutto. E allora la Germania sta mettendo alle corde i paesi più indebitati dell'Eurozona perché facciano tutto il possibile per ridurre nel tempo più breve possibile il loro debito, ignorando qualunque altra cosa. In realtà la crescita finisce in questo modo per essere messa ai margini, e il rischio è che questi paesi, messi alla frusta per ridurre il loro debito, costretti a farlo in un tempo troppo breve, con misure troppo drastiche, finiscano semplicemente per morirne. E questo è davvero preoccupante. Mutatis mutandis, si torna a quel vecchio detto di Olaf Palme, che voleva tenere calmi i suoi compagni socialdemocratici troppo aggressivi verso il mondo produttivo, verso il capitalismo che produce, e diceva: calma, se vogliamo tosare la pecora dobbiamo in primo luogo tenerla viva. Paradossalmente la Merkel merita la stessa osservazione: se vogliamo che la pecora ripaghi tutti i suoi debiti dobbiamo tenerla viva. Le misure che sono state prese dal nostro governo, parlando dell'Italia, sono sufficienti? Ma io considero me alla stregua della conferenza episcopale, non faccio né sfaccio governi. Avendo detto questo, è chiaro che le misure fin qui adottate, che probabilmente sono sufficienti a farci arrivare al pareggio del bilancio entro 2 anni come promesso, non è detto che riescano a farci arrivare vivi a quell'appuntamento. E torna qui il monito già fatto da Olaf Palme: come si fa a tenere viva la pecora mentre sta pagando il debito? La domanda importante a questo punto è questa, e le misure del governo la risposta non l'hanno data. Quindi un pacchetto di crescita molto aggressivo, un cambiamento radicale? Un pacchetto di crescita molto aggressivo, dove l'aggressività non sta nello scatenarsi contro qualcuno, ma soprattutto nello scatenare la capacità che gli italiani hanno di lavorare, e di lavorare insieme, per produrre di più di quanto finora non abbiano prodotto. Aumentare la produttività totale dell'economia italiana significa fare anche cose che avranno un risultato nel medio termine, che vanno fatte. Il punto chiave è questo qua: dobbiamo darci dei risultati da raggiungere ed essere uniti, non politicamente, ma uniti nel voler recuperare il vigore della nostra economia. Il messaggio principale è questo, il resto sono... Ci vuole passione per farlo, manca la passione? Perché manca la passione? Ci vuole passione per farlo, evidentemente perché nessuno sa suscitarla. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa cosa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato d'Italia, abbiamo parlato di italo-americani, di Columbus Day Parade. Bene, vi do una notizia, perché oggi più tardi la parata si chiuderà con la performance di una cantante italo-americana adoratissima di Howard Beach, pensate, qui poco fuori New York. Si chiama Pia Toscano ed è diventata una celebrità grazie al talent show American Idol di Pia Toscano, This Time. You. Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.